male. Vabbè, a questo giro tocca a me. Mario, cosa vuoi, il camioncino o la supposta? Io, siccome sono un bel preparato fine, a me se mi porti una cosa, anche se non è vergine, va bene uguale. No, questa sera adesso che c'è il lavoro impegnato, così ci vuole il camioncino, secondo me. Thank you. pizzarella. Sì, signore. Volevo chiedere una cosa, Gianni. Perché devi stuccarli già? Devi stuccare il muro? Perché ho tolto i quadri, e e sono stappando i buchi. Ah, non ce li lasci? No. Li metto diversamente. Ah, ecco, ecco, ecco. Devo che lasciarli chiusi tutto com'era. Ah, no. Siamo rivoluzionati. Anch'io ne ho comunque per domenica, eh. Oh, yeah. E vabbè, già passerà. Poi domenica sera, se sono impegnato, E quello del vecchio, basta con un'altra casa? No, devo andare a messa. A messa? No, c'è la messa di mio padre per me. Ah, se lo stavo dicendo, Mi hai fatto spaventare per un attimo. Gabba gara. Domenica è piena. Poi giovedì, sempre che me lo diano, devo andare a fare un'altra visita. Ma non dovevi fare qualcosa, Lucio, tu? Ehi, l'ho fatta stamattina, sono andato e il dottore ci ha bruciato, capito? E io ho fatto solo le analisi, l'elettrocardiogramma, tutto quello che dovevo fare, tranne che la visita acustica, perché il dottore non c'è venuto. Non so cosa sia successo. musica che vi piace, quindi non mi fa nessun dispetto. Non supero quindi? Sì. Mario! Stamattina ho fatto presto. certo, se avete pagato questo che metto musica. Ma, un, due, tre, adesso va bene. Ehi, tutto lo slitto del frequenzimetro. ma se lo smette lo puoi spegnere, c'è qualche interruttore da parte? No, negativo. Evidentemente si è bruciata la lampadina. Kappa. Cosa avete detto? Il fatto dubbio è questo, quello che si sente nel corrido. A me viene di parlare per quale segnale comunque, E lui si schiatta due volte. E tu lo passi di punto a me? E io lo passo. Alla grande. Passi anche tu, lo passo io. A voglia, 9-10 sei tu, 2-9. E comunque lui. No, non penso sia lui una verità. Sembra strano a me. La verità non ho mai fatto una cosa del genere. Mi sembra un po' di tutto lo strano che sia lui. Sta anche parlando, capito? È lui. Questo non l'ha mai fatto, l'ha fatto 4 sicuri, in poco tempo. Buona verità, io non... Ma è perseguitato, mi sembra strano che sia l'ombra, qua la verità. Vabbè, io la sto giocando con la caccia, le cose cambiano, però mi sembra strano una cosa del genere. Non come neanche a lui la verità. Lui si mette un musica strano, non mette un musica di questa qua la verità. No, Rani, ha fabbricato pure, vedo. Ci ha parlato uno scorso diverso, non ci metto piede. Perché io sono entrato la verità, quindi non so cosa dire. Ah, poco fa nel canale 5 che stava bestemmiando dicendo che praticamente non entrava nessuno, che qua che là, ha cominciato a incazzarsi, a ingiurire, a infierire contro tutti. Cattagliete giù. Ah, vabbè, allora sono zitto là. Io non sapevo niente di questa cosa qua, la verità. Ogni volta che si cuoce fa casino, l'ha fatto un po' di volte già. Sì, vabbè. Sei calmato, si cuoce. Cioè, le batterie, ci sono i cosi, c'è l'acqua. C'è quel bidighista, la vuole. Domenico, mi faccio questo, visto vai, così impari. Ehi, amico tuo Domenico, faccio per te così impari. A dire che io mi sono sposato, chi mi ha raccolto la stessa di vecchio, visto quello che ci ha raccolto la centro solico di Usini e sei dritto e non dici niente. Pensa che sei Domenico, il Domenico Tarbarelli. Ah? È Pierpaolo, non è Domenico. Ah, Pierpaolo va a far cuffia, pensavo da lui. E fatta la domanda di se in due conti. Beh, allora vai. Ho sempre in mezzo, mi c'è un fisco, cioè, capito, per quello che mi ha fregato. E sta per farti di tutto. Che bello. Sentiamo l'esplosione, boom, casa è tutto. Così non va bene però. Allora, sicura, io ti lo chiamo. tu già passi bene, ma cosa non passa male un po'? Sì, Pier Paolo. Sì, lo sento col fischio, ecco perché mi ha fregato, mi sentivo questo fischio, siccome quando parla cosa lo sento col fischio perché ci mette un po' di frequenza, mi ha fregato per quello. O si sbarca, no? Per carità, devo sbarcare. Andiamo, ce ne andiamo sotto, ci reca la risultare. E ce n'è anche lui, non ti preoccupare, c'ha quel barattino là, quindi se lui c'ha qualcuno qua. Cioè lo sai, quel barattino qua là, 25 e 30, quindi non c'è niente da fare. Dopo di vuoto che parlare direttamente lì, te lo dico io. Ma come la fonte? Dati coppia a voi, dimmi. Mario, non ti processo questo. Ma ce la semi. Dicendo Pomponio, non riuscivo a capirlo manco io. Andai che ti faccia fuori ora dal sacrificio, buon po'. Cos'hai? Dai, il canotti, ce l'abbiamo questa musica. Ma sicuramente ne ho raccolti tanto, ma perché non me la ricordavo, eh? In tanti anni di servizio buono che ho fatto, non ti avevo mai raccolto. E cosa vuoi che dica io? Quando c'è quella musica ti sento tutto quanto in mezzo, quindi capisco la metà di quello che dici. Poi Mario poco fa addirittura ha attaccato il processore, anzi sta il processore, non capivo neanche cosa stavo dicendo, figurati tu. Mario, spacca il coso, metti il processore, così stai strappando. Ogni addino che è peggio, ma in diciamo, non è che siamo sostanziali. 630, 6630. Dentro l'appartamento, cioè io sono più di 20 giorni così. così e non mi pare giusto che io debba sopportare cioè un supplizio del genere, anche perché penso di essere stato sempre corretto con tutti e leale con tutti quanti, quindi non penso di meritarmi questo disturbo qua, anche perché poi mi sto rendendo conto che questo disturbo più sta andando e più sta aumentando. Capito? Cioè prima era alle 8, poi alle 7, poi alle 9, sono rientrato a casa e il disturbo alle 6 e mezzo c'era, e allora di pranzo c'era, cioè sta diventando una cosa veramente insostenibile. Lo so, perché io sono arrivato qui a casa che era l'una e un quarto e c'era, addirittura guarda io volevo entrare e poi c'è mio buon testimone tuo figlio, provate a entrare, poi mi è venuto un attimo di nervosismo e ho staccato direttamente la spina dalla presa. Di essere a una di quelle sagre, sai, di questi paesini che fanno, sai, due arrostite di salsiccia, un bicchiere di vino, ecco, vedi, una cosa del genere non mi disturberebbe. Olì. Se uno si mette d'impegno la fondi tu perché hai ragione tu, No, e non è giusto che uno si debba interrompere così in quella maniera, assolutamente. E la mia convinzione è che il segnale è al 100%, è come abbiamo pensato, è scelta quel palazzo lì, dove ti ho detto io. E non me lo toglie nessuno dalla testa. Tanto io posso essere al 100% d'accordo con te, però se non ho la certezza matematica non posso andare a bussare la porta di nessuno e come ho fatto nei due palazzi qui a fianco a me, perché poi non va bene, vi è capito? Cioè se io avessi avuto la certezza al 100% come queste macchine che dite voi esistono, no? Che ti dicono ecco il segnale viene fuori da lì, allora mi saremo su subito. Per andare così a tentoni, a occhi chiusi, cioè come quando ti mettono una benda negli occhi, non va bene, non va bene Anto, perché stai solo andando a rompere le scatole alla gente che poi non c'entra niente. Non so. Esistono, tranquillo, soprattutto se informi quale persona è là, e te lo deve acciappare. E la acciappano, e quando lo trovano. Vedono bene, te lo fanno smettere per sempre, tu non sentirai manco più una mosca. Cappa di positivo, però mi manca adesso quella musichetta di coso. Tiri tiri tiri, oletto nero. Su che andiamo, su che andiamo. E se la riprenda doppio rum. E non mi viene più la manco da riprendere. Non riusciamo a trasmettere questa roba, No, no, io sono sicuro che anche con quelli là sicuramente non ne caveranno piedi. Comunque dai, su che andiamo. Allegria, cambiamo discorso, se no mi riprende di nuovo il malumore. Beato che non c'è in questo momento, dai. Abbiamo di tutto e di più e niente, dai. Non ci sta problema. Su che andiamo, Gianni, fai girare per chi vuoi. Io dai, riprendi Pierpaolo. La bacana. E quindi domani tu sei a riposo, così è? Dici a me che fa. Capo. Oui, messie. Allora che puoi andare domani, dai. E Gianni, tu invece domani non lavori, vero? Sì, lavoro. Ah, lavori domani? E perché cos'è domani? Sabato lavoro tutto il giorno. Cioè se sapessi chi è e che la sta mandando, che mi faccio prestare il CD e me lo masterizzo. E vai a Usi da Preattivo. A Usino? Usini. Usini? E chi è? Che c'è a Usini? Che esce così bene? Con linea attaccata, sì. Ah, Monello. E bene amico mio, imbarrato ti sia il CD, manda musica che mi rilassa, succhia anche tu che andiamo. Ah, ti piacciono quelle musiche così chiuse? Cavolo, io con quelle cose lì, è ciò che mi ha dato un'idea questo amico qua di Usini, e domani e su Emule mi faccio qualche piccola ricerca e mi scarico il Torito. Questo è bello da ascoltare in cuffia, amico, quando sei in posizione orizzontale. Eia, passo duble così. Giuse. Avanti vera. Ma non dici che hai avuto la tua dose di incantatura oggi? Non passo io. Non mi passi, dimmi Pierpa. No, ho detto che oggi non mi hai detto tu che hai avuto già la tua dose di incantatura. Cappa di positivo. Anzi, oggi per cambiare l'ho presa doppia. No, non chiamarlo molto a questo qua, perché è sempre quello che insulta, Lui è. E allora? Perché se no, guarda, te ne dici tutti i colori e poi ti cade di nuovo. Babbo, ma... babbo, va. Forse mi conosco come le tante, magari un po' subigliato pure e li posso far diventare a casa la vece come di Giambo mio, Giumbo o come di Giammani. Lui l'importante è che sia buono buono lì, manda questa musichetta, guarda, e ci rilassa tranquillamente. E quello è che ogni tanto non fa, che ogni tanto gli prende di tutto. Come arrivo io? E chi tu è? A me mi piace ballare la comparsetta, una mano in culo e la sera mi sento. Ci scherziamo, se la riprenda un po'. Adesso, se mette il processore c'è bene. Processo. Ma cosa si disegni, c'è un momento. A lei c'è il sito, l'ho visto che è morto. Ah, c'è una bella musica. faccio per Salvatore, ma visto e considerato che tu mi stai dicendo così, non ci sarà manco lui. Senti, quel telefono acceso ce l'hai?